Va serenata celeste, va serenata celeste, celeste come gli occhi di una donna che rassomiglia tanto a una Madonna. Va, tu che tutto hai saputo, a quei tali cuore che non ha scordato i sogni d'oro che non ha sognato. Ma tanto male la malinconia, da quando l'amor mio non è più mio. Va, serenata celeste, tu che sai quanto io soffro e sono triste, soltanto il pianto che mi costa, serenata celeste, nulla più. Quando l'amor mio non è più mio, va, serenata celeste, celeste come gli occhi di una donna che rassomiglia tanto a una Madonna. Serenata celeste, nulla più. Va, serenata celeste,